Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bruciano ancora il Carso, il Vallone, evacuate centinaia di persone di Savonia e di Isonzo che hanno passato la notte fuori dalle loro abitazioni. Squadre dei vigili del fuoco a protezione delle case. È ripartito l'incendio sul Monte Raut, ma sorvegliato in quota dalla forestale. Aresi a situazione sotto controllo. Ripartono a breve i sorvoli di Canadair ed elicotteri. Continua l'emergenza idrica in un'estate calda e secca come nel 2003. I consorzi sono pronti a razionare l'acqua, ma servono nuovi invasi e bacini. Allarme bomba ieri sera alla stazione di Venezia a causa forti ritardi, una ventina di treni cancellati anche verso il Friuli Venezia Giulia. Annunciano forti iniziative di proteste ai lavoratori della Varzila che continuano il presidio davanti allo stabilimento con turni di guardia a rotazione. Questa mattina ha convocato un'assemblea. La crisi della Tirso, l'azienda tessile di Muggia i cui lavoratori rischiano ora la cassa integrazione. Ieri un'assemblea sindacale ha fatto il punto della situazione. A Cividale l'ultimo saluto a Elena Loduca, la poliziotta e volontaria di protezione civile che ha perso la vita mentre stava operando nello spegnimento di un incendio nel comune di Prepotto. Proseguono i lavori del Consiglio regionale impegnato nella manovra estiva di assestamento di bilancio. Oggi la discussione degli ultimi articoli e il voto finale. La magia senza tempo delle frecce tricolori si è riproposta nel cielo di Lignano davanti agli occhi di 200.000 spettatori. Il 25 agosto si replica a Grado. Le 7:19 minuti 40 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 29 luglio. Subito uno sguardo alla situazione del meteo con le previsioni per oggi. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, più nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste ci sono 24 gradi 5 decimi, il vento soffia a 22 km orari da est-nord-est, bora moderata, il mare poco mosso con temperatura di 25 gradi e 5 decimi. A Udine 24 gradi 5 decimi, a Pordenone 23 gradi, a Gorizia 22. A Tolmezzo 19 gradi e mezzo, a Fori di Sopra 15 gradi, a Tervisio 14, a Sappada 13, a Piancavallo 12 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 10 gradi e 5 decimi, sulla costa a Lignano 25 gradi, a Grado 24 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare in queste località balneari è di 26 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi, in mattinata sulla zona montana, saranno possibili locali rovesci o temporali. In giornata il cielo sarà in genere poco nuvoloso sulla costa, variabile sulla pianura, dove farà decisamente caldo. Sulla zona montana dal pomeriggio si svilupperanno rovesci e temporali che in serata e nella notte si estenderanno anche a pianura e costa. I temporali localmente potranno essere anche forti. Nonostante l'incessante lavoro dei vigili del fuoco, corpo forestale, regionale e volontari dell'antincendio boschivo della protezione civile, l'incendio che sta bruciando il Carso Goriziano da giorni non è ancora del tutto sotto controllo, come afferma poco fa in una nota il vicepresidente della regione Riccardi. I vigili del fuoco hanno aumentato gli operatori sul campo con una ventina di mezzi, oltre al personale dei comandi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, in arrivo moduli delle colonne mobili regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna. Tutta la frazione di San Michele di Savonia di Isonzo è stata evacuata. Chi non ha avuto la possibilità di farsi ospitare è stato accolto nella palestra comunale. Due i fronti attivi, uno in località San Michele e l'altro ai bordi della statale 55 in località De Vetacchi. Nella notte i fuochi non sono avanzati fortunatamente in modo significativo e a momenti dovrebbero riprendere le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei, in cui sono riposte le speranze di miglioramento della situazione grazie anche alle piogge previste per questa sera sulla zona. In arrivo ci sono due Canadair e tre elicotteri. A causa delle fiamme che si sono avvicinate ieri alle case delle frazioni di De Vetacchi, San Michele del Carso, San Martino del Carso, Visentini, Gabri e Marcottini sono stati evacuati in preallerta. Ad Armanforte i colleghi italiani sono presenti anche 50 vigili del fuoco sloveni. Dal cielo hanno operato fino a sopraggiungere del buio due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un elicottero dell'esercito italiano e numerosi elicotteri regionali. Sul luogo dell'incendio è stato inviato anche il nucleo regionale biologico chimico radiologico di Trieste, pronto all'eventuale messa in sicurezza e bonifica dei bomboloni di GPL che potrebbero essere minacciati dalle fiamme. Altro punto critico è quello della frazione di Monte Aperta nel comune di Taipana, che è assediata da più focolai. Se ne conta infatti uno nella parte superiore che potrebbe scendere oltre a quello alla sommità del Gran Monte e a quelli nella gran parte centrale ai lati del Gran Monte. La situazione, che è stata monitorata per tutta la notte dalla Protezione Civile, dalla Forestale di Attimis e dai volontari, è in costante divenire e nelle prossime ore tutto dipenderà dal vento, che potrebbe continuare a diffondere le fiamme ed espandere un incendio che è riuscito ieri in poche ore a propagarsi nonostante i tempestivi interventi di spegnimento. Minore l'entità del fuoco che arde a Frisanco, che al momento non sembra minacciare i centri abitati. Prevista in mattinata una riunione della Protezione Civile e delle altre forze in campo per fare il punto della situazione e decidere come procedere nelle operazioni. E a seguito degli incendi scoppiati sul Carso, che negli ultimi giorni hanno danneggiato 884 ettari in Italia e altri 2.475 in Slovenia, la Presidenza regionale del Fondo per l'Ambiente Italiano per il Friuli Venezia Giulia ha deciso di candidare il territorio transfrontaliero colpito dai roghi ai luoghi del cuore, iniziativa di censimento spontaneo per la tutela del patrimonio italiano promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. L'iniziativa è intesa a salvare e recuperare il territorio danneggiato per poterlo tramandare alle future generazioni. L'iniziativa sarà presentata a Trieste oggi nel Palazzo della Regione di Piazza Unità alle 9. Passiamo a un'altra emergenza, quella idrica, dovuta al periodo prolungato di siccità e all'assenza di piogge. Se la situazione non cambierà radicalmente, i consorzi dovranno rivedere i piani di razionamento. Adesso tutti stanno dicendo che bisogna fare i bacini, ma io da contadino dico che purtroppo ormai la vacca è scappata dalla stalla, chiudere la porta adesso è troppo tardi, perché ci vorranno anni per risolvere questo problema. Nell'immediato l'unica speranza è la pioggia. A medio termine, lo dice l'assessore regionale Zanier, sono gli investimenti per invasi e bacini di accumulo. La regione è pronta a finanziare ulteriori 23 milioni di euro per le opere. A due terzi della campagna irrigua, però, l'emergenza continua. I consorzi di bonifica sono pronti a rivedere i piani di razionamento dall'8 agosto, valori delle piogge che raggiungono il 40-60% rispetto alla media climatica degli ultimi 30 anni. Temperatura media dal 1 giugno che si attesta a 24 gradi e 8 decimi, come nel 2003. Nella zona del consorzio di bonifica pianura friulana le difficoltà maggiori le crea l'abbassamento generalizzato della falda freatica. Stefano Zorzutti, Consorzio Bonifica Pianura Friulana. Nel 2003 avevamo solo problemi sulle acque superficiali, sulle acque derivate da tagliamento. Invece quest'anno si è aggiunta, oltre a questo, anche i problemi con livelli di falda. Quindi moltissimi impianti del consorzio che emungono dalla falda sono andati in crisi perché purtroppo erano molto basse, mediamente 5-6 metri, in certi punti anche 10. Crisi idrica anche nella destra tagliamento. Nel bacino del Meduna è piovuto metà di quanto piovuto in quello del Cellina. Il fiume Isonzo è quasi in secca, a rischio i vigneti del Consorzio Bonifica della Venezia Giulia. Enzo Lorenzon, Presidente Consorzio Bonifica della Venezia Giulia. Purtroppo il problema è che non c'è più acqua, cioè il fiume sta andando in secca. E non è mai successo da memoria d'uomo, in questo momento c'è questo problema. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Intanto, per far fronte alla crisi idrica e al cambiamento climatico, nei prossimi anni sono previsti quasi un centinaio di milioni di euro tra fondi della regione e risorse del PNRR nell'ambito dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia per far fronte alla crisi idrica e al cambiamento climatico nei prossimi anni. A questi fondi si sommano poi le risorse del PNRR che andranno a finanziare i progetti presentati dai consorzi in partnership con l'amministrazione regionale. Voltiamo pagina. Crescono rabbia e disperazione tra i lavoratori di Wärtsilä in presidio davanti allo stabilimento a Bagnoli della Rosandra dopo il confronto al Ministero dello Sviluppo Economico, in cui la multinazionale finlandese ha confermato i 450 licenziamenti e lo stop alla produzione. Oggi alle 11 convocata un'assemblea. Giorno e notte continuano a varcare i cancelli della fabbrica che presto li lascerà a casa. Non è facile, qualcuno ha gli occhi pieni di lacrime, di delusione, stanchezza e rabbia. C'è anche paura per il futuro, ma la procedura di licenziamento chiesta da Wärtsilä per 450 dipendenti del sito di Bagnoli della Rosandra va avanti contro la volontà di tutti e nonostante gli affari vadano a gonfie vele per l'azienda che vanta un profitto netto di quasi 14 milioni di euro nel 2020. Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Se Wärtsilä volesse andare avanti su questa strada, penso che nessuna realtà italiana dovrà più avere a che fare con Wärtsilä. E forse è utile dare questa comunicazione perché è utile agli investitori di Wärtsilä, che sappiano che quell'azienda sta perdendo fette di mercato importante. Giovedì ci sarà lo sciopero di tutti i lavoratori delle sedi italiane di Wärtsilä. Alessandro Gavagnini della FIM CISL Trieste. Ora abbiamo l'unica cosa che possiamo fare è aspettare che il Ministero ci ha lasciato dicendo non è finita qua, e quindi ci aspettiamo che porti avanti sia il progetto enunciato, il famoso cantiere del mare, piuttosto che un ripensamento da parte di Wärtsilä, perché noi non dimentichiamo che quello che chiediamo è il ritiro della procedura. E adesso c'è chi propone che sia lo Stato a diventare proprietario della fabbrica. Sascha Colautti, USB Trieste. Il governo sostiene che questa azienda è strategica, deve avere il coraggio di intervenire con la nazionalizzazione e, se serve, anche espropriando. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Credo che questa sia un'ipotesi suggestiva ma di scarsa praticabilità. Piuttosto si tratterà di capire se altri investitori che fanno questo mestiere siano disponibili a intervenire. Bagnoli della Rosandra, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo adesso della crisi della Tirso, l'azienda tessile di Muggia, in cui i lavoratori rischiano ora la cassa integrazione. Ieri si è tenuta un'assemblea sindacale, terminata nel tardo pomeriggio, in cui si è fatto il punto della situazione. L'allarme è scattato dopo l'annuncio della proprietà, che ha indetto ferie forzate per il personale. Già richiesti dalle parti sociali degli incontri con l'azienda, la regione, con Friuli e con Assindustria. A Filippo Caputo, segretario regionale Fesica Confsal, abbiamo chiesto un resoconto di quanto emerso in assemblea. Noi abbiamo informato i dipendenti della Tirso di quello che ci ha redazionato il proprietario dell'azienda, il dottor Parodi. Lui ha prospettato molti aumenti di energia, perché questa azienda lavora molto con l'energia, in quanto tutti i macchinari all'interno della Tirso sono elettrici, no? E quindi consumano un sacco. Il problema grosso è le bollette, quindi l'azienda non è in grado di tenere testa a bollette di 1,5 milioni al mese rispetto ai 300-400 mila euro di prima. Quindi prospetta prima riduzione e ha fatto fare delle ferie forzate, e adesso al ritorno si prospetta eventualmente, se la cosa rimane come sta oppure peggiora, si prospetta cassa integrazione. Le ferie forzate fino a quando sono previste? Di solito l'azienda chiude per 2 settimane, adesso chiude per 4. La riapertura dei cancelli a fine agosto. Quanti sono gli operai nel sito produttivo muggesano dell'azienda? Gli operai sono 270, compresi gli interinali. La novità, stiamo facendo una forzatura verso l'azienda in modo che gli interinali, che gli scadeva il contratto in agosto e quelli che gli scadono anche a fine di questo mese, luglio-agosto, abbiamo chiesto all'azienda di rinnovarlo il contratto almeno per 6 mesi, in modo che a rientro, se ci sarà cassa integrazione, questi interinali possono anche loro godere di questa norma. L'azienda ha prospettato una percentuale di cassa integrazione a cui intende ricorrere? Beh, l'azienda ancora non si è sbilanciata. E ora la cronaca, un allarme bomba ieri sera alla stazione di Venezia ha causato forti ritardi, una ventina di treni cancellati anche verso il Friuli Venezia Giulia. Una telefonata alla questura che segnalava la presenza di una bomba alla stazione di Santa Lucia di Venezia ha fatto scattare l'allarme nello scalo ferroviario che, in base a una procedura codificata di sicurezza, è stato evacuato dalle forze dell'ordine. Le operazioni di messa in sicurezza della stazione, che hanno visto impegnati gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco, hanno fatto arrestare il traffico ferroviario e i passeggeri a bordo dei treni sono stati fatti scendere e portati all'esterno in un'area sicura. La valigia che ha fatto scattare l'allarme conteneva solo carta. Pesanti le ripercussioni dello stop. I treni in transito per Venezia, compresi quelli diretti in Friuli Venezia Giulia, hanno registrato ritardi fino a 2 ore e mezza. Celebrati ieri nel Duomo di Cividale del Friuli i funerali in forma solenne dell'assistente capo della polizia e volontaria della protezione civile Elena Loduca, travolta da un albero la scorsa settimana durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel comune di Prepotto. Bandiere a mezz'asta a Cividale per le esequie di Elena Loduca, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e volontaria della Protezione Civile, morta la scorsa settimana durante un sopralluogo a Cialla di Prepotto a seguito di uno degli incendi boschivi che stanno devastando la nostra regione. Una vita spesa al servizio della comunità, hanno voluto ricordarla così le centinaia di persone che hanno partecipato al lutto della famiglia e dei colleghi. Per seguire la cerimonia è stato allestito un maxischermo nella piazza a fianco del Duomo. Ci si è chiesti come poteva succedere una disgrazia simile a Elena, così esperta, attenta e preparata. Una donna sempre disponibile, schietta e generosa, ci viene descritta da chi la conosceva. Oltre alle massime autorità civili della regione, alla cerimonia hanno partecipato anche tanti conoscenti e semplici cittadini che si sono sentiti colpiti dal destino di questa donna, strappata alla propria famiglia mentre indossava la divisa di volontaria. Che persona era? Stupenda, stupenda e basta. Non doveva succedere. Perché è qui questa giornata? Così, perché partecipa come gli altri. Siamo amici da tantissimi anni, già dai bambini andavano a scuola assieme e era impegnata assieme a mia moglie e anche le altre mamme, dai bambini dell'asilo fino alla scuola, si è adoperata sempre e costantemente poi ha proseguito in questo suo cammino che è stato unico secondo me. Cividale del Friuli, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo ai lavori del Consiglio regionale impegnato nella manovra estiva di assestamento di bilancio. Tra i finanziamenti, 111 milioni per il sistema casa, oltre 70 per le scuole, 22 milioni per il trasferimento degli uffici regionali in Porto Vecchio a Trieste. Oggi la discussione degli ultimi articoli e il voto finale sull'elaborato. 15 milioni a potenziare il cloud InSiel che archivierà i dati di tutti i cittadini a fini di pubblica amministrazione. È una delle poste approvate nella seduta pomeridiana sull'assestamento di bilancio in Consiglio regionale. Spiccano poi 22 milioni totali per finanziare il trasferimento degli uffici regionali nel Porto Vecchio di Trieste. Verranno utilizzati i magazzini 7 e 10 più un terzo edificio e verrà creato un nuovo hangar del 118, altre destinazioni da quelle inizialmente predisposte, causa il permanere della causa fra Comune di Trieste e Green Sesam. Il consigliere di opposizione Cosolini ha espresso la preoccupazione sulla destinazione degli edifici che saranno dismessi. E se c'è stato accordo trasversale sul milione di euro da destinare alla costruzione di pannelli fonoassorbenti per ridurre l'impatto sonoro delle attività dell'interporto di Pordenone, preoccupazione invece è stata espressa dal consigliere pentastellato Mauro Capozzella sull'intasamento della Pontebbana. Non ci sono soluzioni portate in aula dalla maggioranza, quindi dovremo provvedere noi per fare in modo che il traffico pesante alieno non passi attraverso tutti quei comuni che insistono sulla Pontebbana. Confermato lo stanziamento di 1.700.000 euro per il rinnovamento dello stadio di Fontana Fredda, dove da novembre dovrebbe giocare il Pordenone. Giuliano Sadar, TGR Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento politico inteso ad aprire un confronto con la cittadinanza, l'incontro organizzato dal consigliere comunale di Grado Adriano Ritossa di Fratelli d'Italia sul tema del miglior strumento giuridico per il funzionamento della struttura comunale Casa Serena. Appuntamento a Grado, all'auditorium Biagio Marin, alle 17. I dati della pandemia in Friuli Venezia Giulia: nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.629 nuovi casi di positività, dunque 180 in meno rispetto al giorno e alla settimana precedente. 8.118 i tamponi eseguiti, con una percentuale di positività del 20,06%. Si registrano 9 decessi, dunque 4 in più rispetto al giorno precedente, e ricoverati in terapia intensiva sono 6, dunque 1 in meno, mentre ricoverati nei reparti di area medica scendono a quota 307, dunque 4 unità in meno rispetto al giorno precedente. E dopo 2 anni di stop forzato dovuto alla pandemia, sono tornate a volare nel cielo di Lignano Sabbiadoro le frecce tricolori, una festa per decine di migliaia di cittadini, turisti, bagnanti che hanno potuto assistere allo spettacolo Viva Lignano Air Show seduti in spiaggia nelle aree non temporaneamente interdette alla balneazione, ammirando evoluzioni e figure capaci di suscitare sempre meraviglia e stupore. Tutti gli anni veniamo in vacanza in questo periodo, selezionando appunto il calendario sulla base dell'esibizione delle frecce tricolore. We got to know some nice friends. I nostri amici ci hanno detto di venire da Hannover a dare un'occhiata e così eccoci qui. Patriottico, ed è un orgoglio nazionale, quindi siamo qui per loro. Da dove venite? Dalla Toscana. Poco dopo le 4 arriva l'ordine che Lignano Sabbiadoro aspettava da quasi 3 anni. Tutti fuori dall'acqua. Inizia lo show aereo delle frecce tricolori. Il primo qui dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Stefano Witt, Pony Zero e comandante delle frecce tricolori. Lignano per noi ha un significato particolare. È la città dove le frecce tricolori si addestrano anche durante l'inverno. Ci sentiamo a casa. Tornare qui di fronte al pubblico di casa ci fa enormemente piacere. 160.000 i fortunati già presenti in città. Si stima altri 30-40.000 siano arrivati apposta per l'occasione. Oggi solo per le frecce, di solito cerchiamo di non farcele mancare mai. Oltre 130 uomini e donne hanno vegliato sulla salute e sicurezza di tutti. Facciamo del volontariato e il volontariato prende freddo e caldo. Elicotteri, paracadutisti, search and rescue in mare, caccia Eurofighter, gustoso preludio all'arrivo della pattuglia acrobatica nazionale. 61 anni portati benissimo, 40 dei quali in sella all'MB-339. L'abbraccio tricolore finale alla regione è in realtà solo un arrivederci. La stagione acrobatica delle frecce farà tappa a Grado il prossimo 25 agosto. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tetramara è il progetto promosso da Area Marina Protetta di Miramare e Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, OGS, progetto dedicato alla gestione integrata degli habitat marini ad elevato valore ecologico in chiave di sostenibilità. L'iniziativa sarà presentata a Grado alla Biblioteca Civica Marin alle 18.30. Relatore Emiliano Gordini, geologo marino dell'OGS, a cui abbiamo chiesto una sintesi degli ambienti marini coinvolti nel progetto. Sono essenzialmente degli affioramenti rocciosi che sono presenti sul fondale marino dell'Alto Adriatico, sia italiano che sloveno, che a seconda delle varie marerie trova ben conosciuto con nomi diversi, ma sono particolari substrati rocciosi che hanno una genesi molto interessante, al di sopra del quale questo strato roccioso fornisce la zona dove attecchire a moltissime specie e hanno portato proprio a definire questi particolari siti degli unicum biogeologici, cioè degli hotspot di biodiversità. Oltre a questo noi stiamo indagando anche con azioni pilota e in particolare su quelle che sono le distese di Cladocora cespitosa, un particolare corallo che vive anche in ambiente temperato come il nostro del Mediterraneo e sono dei veri e propri coralli come possono essere assimilati a quelli dei coralli delle barriere coralline e che vivono in Alto Adriatico e in particolare nella zona slovena, c'è un'area che li rappresenta molto bene. E dunque abbiamo fatto una serie di indagini perché in questi ultimi anni questo particolare corallo ha evidenziato un fenomeno che viene definito di bleaching, cioè di sbiancamento, e che è il precursore che porta poi anche alla morte di qualche elemento che costituisce il corallo stesso. Ecco allora che i nostri colleghi sloveni stanno indagando con attività anche in laboratorio per cercare di capire come salvaguardare, magari anche recuperare i piccoli coralliti che vengono magari rotti per l'attività diverse o per condizioni meteorologiche particolari e poi reinseriti in natura per poter ripopolare zone dove questi sono carenti. L'altra cosa importante che abbiamo indagato e che mostreremo sempre durante la conferenza, l'attività che abbiamo svolto per quanto riguarda la mappatura delle fanerogame marine, che sono cimodocea nodosa e posidonia oceanica, e associate a un'altra specie, la più grande bivalve che vive in Alto Adriatico, che è la pinna nobilis. Anche questa è una specie che attualmente mostra un problema di mortalità e che lo sta portando quasi all'estinzione. Ecco allora che abbiamo messo a punto una serie di metodologie per quanto riguarda il monitoraggio, per quanto riguarda lo studio e anche per capire in futuro se queste particolari aree di diffusione si sono mantenute o se sono invece andate in deficit per quanto riguarda il numero di esemplari. Giornata di apertura per la mostra Mosaico e Mosaici 2022 della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, giunta alla 28ª edizione e che quest'anno celebra i 100 anni dell'istituzione. La mostra, allestita nei laboratori della scuola, presenta una selezione di opere realizzate dagli allievi nel corso dell'anno formativo appena trascorso. In allestimento lavori di tipologia greco-romana, bizantina e moderna, oltre a serie con animali, insegne con le figure anni 30 e mosaici su stoffa. L'esposizione in inaugurazione alle 18.30 sarà visitabile da domani e fino al 28 agosto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20. E in coincidenza con l'inaugurazione della mostra Mosaici e Mosaici torna in presenza il raduno annuale dell'Ente Friuli nel Mondo che verrà inaugurato dall'evento intitolato I Mosaicisti si raccontano storie e memoria di un mestiere in Friuli e nel mondo. Per l'occasione sono attese rappresentanze da tutta Italia, dall'Europa, da Argentina, Brasile, Venezuela, Stati Uniti, Australia, Giappone e Canada. Nel corso dell'evento sarà proiettato un documentario in lingua friulana della sede RAI Friuli Venezia Venezia Giulia, realizzato da Antonia Pillosio e dedicato alla Scuola Mosaicisti. A Spilimbergo, al Teatro Miotto, dalle 16.30. A fine lavori, in programma il trasferimento alla sede della Scuola Mosaicisti per l'inaugurazione ufficiale della mostra. Terza edizione per il Tri Art Festival, che mette a dialogo cultura, arte e divulgazione scientifica nel segno di sostenibilità e biodiversità. 31 gli ospiti attesi tra artisti, scienziati e divulgatori che si occuperanno del tema di quest'anno della manifestazione intitolata alla foresta urbana. L'iniziativa, in calendario fino a domenica a Butrio, nella villa di Topoflorio, sarà inaugurata alle 17.30 da Massimo Cirri, voce storica del programma di Rai Radio 2 Caterpillar, con cui abbiamo parlato della necessità di avere più alberi in città per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici. Credo che in mezzo a questa estate, che è stata la più calda da che esistono l'estate, tanti di noi in città soprattutto sono andati con fatica, stentatamente, passo dopo passo, dall'ombra di un albero a cercare l'ombra di un altro albero semplicemente per salvarci la vita dall'insolazione. E abbiamo capito che ce ne sono pochi di alberi in città e le nostre città sono molto spelacchiate e credo che questo bisogna cambiare, perché lo abbiamo sperimentato adesso come non mai: le bolle di calore, la vampa dell'asfalto deve essere mitigata non dall'aria condizionata, che per alimentarla abbiamo bisogno del gas di Putin che alimenta le guerre, ma da alberi. Quindi bisogna piantare alberi. Forse siamo a una svolta. Ho sentito un politico dire che ha promesso di piantare 1 milione di alberi all'anno, però l'aveva già utilizzata questa formula. Però se l'ha detto lui vuol dire che la questione comincia a essere sentita. Credo che il verde abbia a che fare con la qualità della vita. Una ricerca fatta molto bene qualche anno fa negli Stati Uniti cercava di capire dove le persone si sentono, sono sentite più felici. E tanti dicono che le persone si sentono più felici, cosa sia la felicità non lo sappiamo, è quando sono in un pezzo di natura, in una zona verde. Quindi credo che sia una questione economica, una questione culturale, una questione di felicità e credo anche una questione di sopravvivenza, perché altrimenti bruciamo tutti. E l'abbiamo visto qui in Friuli Venezia Giulia cosa è successo in questi giorni sul Carso, e anche questo ha a che fare con la curia del patrimonio boschivo, che non deve bruciare, deve entrare un po' più in città. Passiamo allo sport con il calcio. Amichevole di lusso oggi per l'Udinese, che affronta gli inglesi del Chelsea allo Stadio Friuli con fischio d'inizio alle 21. Dal fronte del calciomercato, la conferma della cessione a titolo definitivo all'Atletico Madrid del difensore argentino Molina, gli arrivi di Bejol e Perez e la conferma di Becao. Rimangono ancora punti interrogativi, fra cui la presenza di Udoge la prossima stagione, oggetto del desiderio di diverse squadre. L'amichevole tra Pordenone e Foggia, in programma domani con inizio alle 17.30 al Polisportivo Siega di Tarvisio, dovrà disputarsi a porte chiuse. La decisione è stata assunta dalla questura di Udine per motivi di ordine pubblico. Calcio femminile, due nuovi arrivi per il Tavagnacco. Si tratta di Gloria Magni, terzino sinistro di 21 anni, proveniente dall'Orobica, e Marina Licco, centrocampista 22enne in arrivo dalla Svizzera e precisamente dal Lugano. Alle 7.46 minuti apriamo la rassegna stampa con la prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Incendi in Carso, centinaia di sfollati nel Goriziano, la paura dei sindaci, massima l'emergenza, temiamo il dolo. La crisi industriale di Trieste, lo schiaffo di Varsila, nuovo presidio in piazza, i sindacati dopo la conferma dei tagli rilanciano la protesta e dicono lottiamo uniti. Fassino, chiesto l'impegno attivo del governo della Finlandia. I riflessi internazionali su Servola, laminatoio fermo 5 settimane, Arvedi sconta il caro delle materie prime, il gruppo procede nella riconversione ma la guerra complica l'approvvigionamento di ghisa e nickel. Frena il calo dei residenti, Trieste si scopre sempre più multietnica, in 4 anni l'incidenza degli stranieri è cresciuta dell'11,2%, il peso degli immigrati è ora all'11,9%, fra San Giacomo e Barriera un abitante su 5 non è italiano. Ennesimo forfè per l'Adriatica turistico, stretta al bus per grado, guasto al motore poco dopo la partenza da Trieste della prima corsa del mattino. L'assessore Rossi dice il servizio alternativo su gomma doveva essere un'eccezione. L'apertura del Messaggero Veneto dà conto del vertice dei consorzi di bonifica, con la decisione di irrigare solo mais e frutta. E in un altro servizio in tema si informa invece sui sistemi innovativi in studio per l'irrigazione e la raccolta dell'acqua piovana. Spazio poi al servizio di emergenza dell'Il Soccorso, che compie 30 anni e al momento in sofferenza per la mancanza di anestesisti. In fotonotizia il funerale a Elena Loduca. L'edizione di Udine del Messaggero informa sull'allarme giunto alla UIL dai lavoratori degli ospedali dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, che evidenziano le positività al Covid tra gli operatori a causa del poco spazio disponibile nei reparti per curare i contagiati. Anche il Gazzettino apre sulla siccità e poi informa sul calo dei contagi da coronavirus, a cui però corrisponde una forte affluenza di contagiati in ospedale. Spazio poi agli aggiornamenti sugli incendi in regione, che si propagano anche grazie alle braci trasportate dal vento. L'edizione di Udine del Gazzettino riporta l'allarme del NURSIN, del Sindacato delle Professioni Infermieristiche, per il pronto soccorso di Palmanova, con 12 abbandoni volontari di operatori da inizio anno, che obbligano chi è rimasto a turni di lavoro di 12 ore con picchi di accessi di 80 pazienti al giorno. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, incendi in Carso, massima emergenza, centinaia di sfollati, sindaci di Gorizia, Ziberna e di Savonia Pisc dicono: temiamo un gesto doloso, chissà parli. Le testimonianze degli abitanti evacuati, quelle fiamme velocissime che avanzavano verso le case, la spola degli autobotti per rifornire gli elicotteri. Gusti di Frontiera dribbla il voto. Festa rinviata di una settimana. La kermesse si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre. Monfalcone, rivoluzionato il centro giovani, la divisione in quattro squadre, tanti team per specifiche aree uniti in un'unica community. La sindaca Cisin dice: il nostro obiettivo è creare nuove opportunità. Raid vandalico all'area degli Arditi di Capriva, in località Sricca a Manzano, scritte in spray di colore rosso su diversi muri e una lapide completamente distrutta. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto informa sul passaggio a una proprietà americana della Colussi Hermes di Casarsa, azienda produttrice di impianti di lavaggio per l'industria alimentare, che fattura 50 milioni l'anno e impiega 50 milioni l'anno e impiega 150 dipendenti. La proprietà afferma si tratta di una manovra dettata da esigenze di crescita. Il capocronaca interno è dedicato al primo anno di attività della Lean Experience Factory, fabbrica digitale per l'innovazione aziendale, che si è già interfacciata con 220 realtà economiche. Spazio poi all'appoggio della regione a San Quirino, Fontana Fredda e Roveredo per la richiesta dello stato di calamità a causa del maltempo. L'edizione di Pordenone del Gazzettino in fotonotizia informa sull'incendio avvenuto a Sacile al deposito del Canoa Club, dove ieri pomeriggio le fiamme hanno distrutto 50 imbarcazioni a fronte di un danno di 100.000 euro. Altro servizio, quello sui furbetti dei cassonetti delle immondizie, che gettano rifiuti edili indossando passamontagna per evitare di essere individuati dalle fototrappole. C'è poi un reportage sui danni subiti dal maltempo a San Quirino. Altri appuntamenti e spettacoli: doppio appuntamento a Trieste per la seconda giornata del festival Calling the Boss, dedicato ai 20 anni del disco di Bruce Springsteen, The Rising. Nel pomeriggio musica in Piazza Verdi e questa sera al Castello di San Giusto appuntamento con uno dei cantautori italiani più conosciuti e amati, come Edoardo Bennato. Il cartellone della 26esima edizione del Festival Onde Mediterranee, dedicato a musica, letteratura e pensiero multiculturale, questa sera propone il concerto del rapper Willy Peyote e del suo Precaria Orchestra Sabauda Concerti dal Vivo Tour. Noto per il premio della critica ricevuto lo scorso anno al Festival di Sanremo con la canzone Mai dire mai, la locura che state ascoltando in sottofondo, l'artista torinese si occupa di temi che spaziano dai diritti alla giustizia sociale, senza dimenticare l'alienazione, la sfiducia, la solitudine esistenziale e la necessità di ritrovare un contatto con la propria coscienza e con la coscienza collettiva. Appuntamento a Gradisca di Sonzo all'Arena del Castello alle 21.30. Il concerto sarà preceduto dalla musica dei Green Talks dedicata alla biodiversità alle 20.15. Evento del pomeriggio del festival, la presentazione del libro Conversazioni in alto mare di Marco Aime, dedicato alla complessità dei salvataggi in mare e alle loro implicazioni umane e non solo. Appuntamento a Gradisca, nella corte Marco Daviano di Palazzo Toriani, alle 18.30. Anche le statue parlano, il progetto che animerà il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, per sottolineare l'importanza non solo di vedere le conservazioni museali, ma anche di ascoltarle. Da qui l'iniziativa delle azioni sceniche degli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione, che con il cantautore Edoardo De Angelis, autore di tutti i testi del progetto, proporranno le storie conservate nel Museo Aquileiano. 3 i turni di visita in programma ogni ora, a partire dalle 19. Tra gli appuntamenti culturali odierni segnaliamo la terza edizione della Tre Giorni Parola in Vetta, Musica in Quote, Sapori a Valle, Festival della Montagna del Friuli Venezia Giulia, oggi in inaugurazione con l'intervento dello scrittore Mauro Corona, che interverrà sui grandi insegnamenti della montagna, Sappada in piazzetta Hoffe, alle 17. La rassegna musicale itinerante Un fiume di note prevede la pianista Gala Krzyściakova, che interpreterà Scriabin con una sonata fantasia per pianoforte nel 150° anniversario della nascita, a Polcinigo, a Villa Zara, alle 20.45. Il Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica Triskel prosegue con la band folk olandese Pirolisis a Trieste, al Boschetto del Ferdinandeo, alle 21.15. A seguire, alle 22.30, il gruppo dei Pirates proporrà melodie popolari dei marinai di epoche passate. Serata di debutto per Scugnizza, massima espressione della classica operetta italiana, per la regia di Andrea Binetti, a Trieste, al Voltiamo alla Rossetti, alle 21. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11, con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Il quotidiano appuntamento con voi o Fevelin parlerà del cantiere Friuli. Alle 11.20 circa andrà in onda un tranquillo weekend da paura estate. I programmi regionali tornano poi alle 14. Ed è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.